Martino. Ciao. E Alessandro Manca. Faccio una breve presentazione giusto per introdurvi. Gianni è uno scrittore e giornalista italiano, nato nel 67, l'avete visto anche nel documentario, e ha vissuto proprio quegli anni, quindi è un testimone prezioso. Ha frequentato appunto a Milano nel 67 i fondatori della rivista Mondo Beat, è stato caporedattore della stessa, curatore dell'ultimo numero per Gian Giacomo Feltrinelli Editore. Dall'88 al 96 critico letterario teatrale del quotidiano Il Mattino. Occasionalmente ha scritto anche per altri giornali e periodici, quali Pianeta Fresco, Re Nudo, Lotta Continua, Il Manifesto, Rolling Stones, eccetera, molti altri. Autore anche di libri, recentemente pubblicato Voglio vedere Dio in faccia, Frammenti della prima controcultura, edito per Agenzia X, e tra poco uscirà La città dei gin, il prossimo mese, aprile, primo aprile. Prima aprile, sì. Benissimo. La nuova carne. Edizioni. Benvenuto Gianni. Alessandro Manca, libero ricercatore, laureato in lettere moderne, con la tesi dedicata a un weekend postmoderno di Pier Vittorio Tondelli, appassionato di poesia e letteratura, da anni studioso e lettore del movimento underground di poesia in Italia negli anni 60 e della Beat Generation americana. Scrive poesie, ricerca le trasformazioni alchemiche della parola nel corso della storia. Nel 2018 ha curato questo libro, appunto, I figli dello stupore, la Beat Generation italiana, da cui appunto, anzi, è il documentario che viene prima del libro, giusto? Ma in realtà ci siamo conosciuti in maniera Se magnifica. puoi anche così registriamo questo incontro. In realtà io e Francesco ci siamo conosciuti in maniera parallela, nello stesso momento, scoprendo che stavamo lavorando sulle stesse cose. Io ricordo che una sera qui a Milano dovevo fare una presentazione, una lettura di poesie. E sarebbe venuto anche Gianni con me. Io sono andato a prenderlo e c'era Francesco a casa sua. E Francesco mi ha raccontato che stava andando a intervistare in Italia quei ragazzi che non erano più ragazzi ormai. E io gli ho raccontato che da anni stavo mettendo da parte tutta una serie di riviste, soprattutto quelle di matrice un po' più letteraria degli anni 60. E ricordo che dopo qualche mese lui mi telefonò e mi disse: "Il documentario tra qualche mese è pronto, voglio che il libro allegato lo curi tu." Io mi ricordo che istantaneamente gli dissi subito sì, un sì deciso, e dopo qualche minuto sapevo che non avrei potuto scrivere un saggio da allegare alla sua opera, un po' per mancanza di tempo, un po' per mancanza anche di una serie di informazioni e mancanza anche di alcune consapevolezze. E avevo già tanto materiale da parte letterario di quei ragazzi, e quindi ho messo insieme quelle, non so, 250 pagine di poesie, sostanzialmente, che erano nascoste da 50 anni, perché quel materiale si trova in riviste rarissime e riviste che hanno in mano un po' i collezionisti, perché singole riviste valgono dai 100 ai 200 ai 300 euro oggi. Quindi ci siamo Una conosciuti un po' sincronicità. perché. Sì, assolutamente. Sì. Lui stava Bellissimo. lavorando sull'aspetto visivo, io stavo lavorando sulla parola scritta e ci siamo trovati in sintonia subito. È stata una cosa molto E bella. quindi questa è la prima antologia di poesia beat mai pubblicata, cioè italiana, a Sì, livello fa un italiano. po' sorridere dirlo, però esagerando un pochino sul termine beat, che è un po' una forzatura per certi aspetti, ma per altri no, lo è. In realtà, molti anni fa, Fernanda Pivano stava lavorando a un'antologia proprio ricalcando poesie degli ultimi americani uscita nel 64. Lei stava pensando con Feltrinelli di fare la prima antologia delle poesie di questi ragazzi beat italiani. Poi, da una parte, piano piano, Fernanda Pivano è come se iniziasse a vivere una delusione nei confronti di questi ragazzi, perché si aspettava degli scrittori underground, quando in realtà molti di loro non volevano neanche essere scrittori, non erano interessati a pubblicare. Dall'altra parte Feltrinelli poi muore, e quindi questa antologia 50 anni fa non è mai stata fatta, ma c'era un progetto italiano di antologia e c'era anche un progetto partito dagli Stati Uniti d'America. C'era un volume che si doveva intitolare Don't Count on Me, in cui i il capitolo della letteratura beat italiana lo doveva curare Fernanda Pivano. Anche questa pubblicazione che partiva dall'America non ha mai visto la luce, quindi ci sono state due occasioni per antologizzare questa cosa, non c'è mai stata, e qualche anno fa io ho messo insieme la prima antologia, tra pochi mesi, se tutto va bene, sarà pubblicata la seconda antologia, saranno altre 250 pagine di materiali scritti, diciamo, dal 65 al 72, 73. Materiali letterari, che è un po' il mio interesse, ecco. Ma quindi allora possiamo parlare di quello, di quello che iniziò a svilupparsi negli anni 60 come un movimento, nel senso, c'era autocoscienza rispetto a questo movimento, c'era in che rapporto stava un po' con la politica del tempo questa espressione anche di dissenso, o era un dissenso, o più esistono anche delle alternative? Io lascerei la parola al ragazzo alla mia destra. Forse prima che... Il ragazzo alla tua destra, e non ho capito la domanda. Mi chiedevo, ad esempio, anche Mondo Beat era un urlo, o era, come dire, un no rispetto a come dire, quella che era un po' la politica dominante del tempo, o era, come dire, apriamo delle vie alternative? Ma è difficile oggi farsi un'idea di cosa era l'Italia del 67, più di 50 anni fa, io non mi ricordo, 50 anni fa. Quello che posso dire, come dico, che era un'Italia in bianco e nero. C'era la Democrazia Cristiana, De Gasperiana, c'era il Partito Comunista in parte, ancora stalinista, in televisione non si poteva dire la parola piede, per esempio, i blue jeans non si potevano andare, i ragazzi non potevano andare con i blue jeans, quindi la lotta che si fece, stranamente, era per il diritto di avere i capelli lunghi. I capelli lunghi creavano un allarme morale, perché mettevano in dubbio la differenza sessuale. Questo colpiva particolarmente. Da dietro non si capisce se è maschio o se è femmina. Era questa la preoccupazione della stampa. È un fenomeno curioso questo qui, veramente curioso, sì. Provo ad aggiungere un pezzettino. Un pezzettino, sì. Se dal tuo punto di vista dico cose poco corrette, fermami. Sì. Io rispetto a Gianni naturalmente non ho vissuto quegli eventi, li ho un po' studiati, poi ho avuto la fortuna di diventare amico di tante persone come Gianni che ci sono stati dentro. E piano piano negli anni ho accumulato anche tanti originali di allora. Un po' provando a rispondere a quello che dicevi tu, Carolina, mi è facile pensare a cosa avvenne prima di quegli anni e cosa avvenne subito dopo, per dire che in qualche modo una consapevolezza letteraria di gruppo ce l'avevate. Anche perché prima in Italia c'era la poesia tradizionale, non vi era un movimento dal basso per riappropriarsi della poesia, era qualcosa di lontano, scolastico. Sì, sì, era un'Italia asfittica, e c'era anche però questa volontà di svecchiare anche la letteratura, sì. Sì, c'era questo. E chiudo dicendo che... Perché avevamo letto gli americani, i francesi, Rimbaud, eccetera. Sì, dal punto di vista letterario l'Italia era indietro. Anche nelle università, per esempio, non si studiavano le nuove tendenze della sociologia, dell'antropologia. C'era da svecchiare anche la scuola. L'università, cosa che poi gli studenti chiesero nel 68. Sì, sì, c'era questa consapevolezza. C'era, pur non avendo né manifesti né una modalità gerarchica, non esisteva un manifesto da seguire in Italia, certo. Di fatto. Sì. E chiudo dicendo che se vi è una differenza con quello che accade pochissimi anni prima, vi è anche una differenza con quello che accade pochissimi anni dopo, perché sostanzialmente dagli anni 70... le riviste, che ve ne furono moltissime, avevano tutt'altro taglio rispetto alle vostre tipologie di riviste, in cui c'era un aspetto esistenziale, alcune un aspetto spirituale, un aspetto letterario. Dagli anni 70 questa modalità, tranne forse solo il Renudo, scomparve di fatto. Quindi è un po' come se in quei due o tre anni magici, speciali, vi furono delle caratteristiche che vi unirono in tutta Italia, che poi scompaiono quelle caratteristiche. Sì, diciamo che era un processo spontaneo di accomunamento tra giovani. Era questo il fenomeno nuovo, no? Successivamente ci fu la necessità di organizzarsi e quindi ci si rifece al marxismo, nacquero dei gruppi chiusi, ci fu un processo di settarizzazione. Infatti io nel 67 andai via dall'Italia perché capii che lo scontro contro i muri di gomma della società italiana sarebbe stato cruento, sarebbe stato terribile. Infatti ci fu la strage di Piazza Fontana, ci fu gli iniziatori della rivista Mondo Beat morirono tutti e due in modo tragico, Gian Giacomo Feltrinelli sul traliccio di Segrate, lì dove andai a fare l'ultimo numero di Mondo Beat, Segrate, Pinelli, che lui era anarchico, diede una mano per ciclostilare il primo numero della rivista Mondo Beat. Sì. Io arrivai a Milano nel marzo del 67, quindi la rivista già c'era, però subito il direttore mi nominò sul campo caporedattore, come faceva Napoleone con i generali, e quindi iniziò la... feci il penultimo e l'ultimo numero. L'ultimo numero lo feci con Gian Giacomo Feltrinelli, di cui parlo nel film, perché ci fu la distruzione, diciamo, del campeggio Vigentino. Avevamo affittato un campo alla periferia di Milano che fu nominato dal Corriere della Sera Nuova Barbonia, e dovevamo fare un ultimo numero, alcuni erano in prigione, al Beccaria, e quindi io pensai, dissi, c'è Feltrinelli che fa i bottoni con i simboli della pace, l'editore dei miei bottoni, perché non chiedere a lui? E quindi da qui nacque l'idea di far fare l'ultimo numero a Feltrinelli, però non di cederglielo come alcuni poi credettero che l'avevamo venduto, no, fare un ultimo numero e chiudere e partire. Infatti nel testo Milano in stato d'assedio dico partite, viaggiate. Sì, io me ne andai in Marocco, per esempio. Me ne andai in Marocco dal 67 al 75, quindi non ho vissuto tutti gli anni della cosiddetta... Sì. Gli anni di piombo. Come diceva la stampa, gli anni di piombo, sì. Ma questi viaggi che hanno fatto tanto parte di questo movimento, poi ad un certo punto, verso il Marocco, verso l'Oriente... Sì, alcuni andavano in... Erano più... Però gli italiani incominciarono a viaggiare negli anni 70. Ma la mia domanda era, questi viaggi erano più per toccare con mano ciò di cui le vostre coscienze si nutrivano, ovvero un pochino... le consapevolezze, se vogliamo, orientali, un bisogno di natura, un bisogno di contatto con un mondo più selvaggio, se vogliamo, di cui, nel quale non esistevano, come dire, delle strutture, delle sovrastrutture sociali, o più un bisogno di fuga per una rivoluzione fallita, per una mancata risposta sociale? Ah sì, in un certo senso fui un disertore, disertai, io mi ero beccato due fogli di via. Quindi decisi di andare in Marocco. Altri andarono in India, altri in Sud America. Io nel novembre del 67 sbarcai a Casablanca, feci l'autostop tra Tunisia, Algeria, Oujda, e arrivai in Marocco, dove sono rimasto sette anni. Proprio un desiderio di spaesamento, di stare fuori dall'Italia. Sì. Beh, nel frattempo l'Italia stava diventando un paese profondamente ideologizzato. Tutto era politica, qualsiasi cosa era. Voi eravate estremamente radicali, ma dal punto di vista esistenziale. Certo. Infatti il 68 scoppiò a cortocircuito tra le istanze esistenziali dei beat e quelle politiche del movimento operaio e studentesco. Sì. Però, stando in Marocco, potevo seguire quello che succedeva in Italia. Io potevo venire in Italia solo per sei mesi all'anno, perché ero militare, avevo dovuto... sì. Però esentato da presentarsi in caserma in tempi di pace. Però potevo venire in Italia solo... Quindi ogni tanto venivo in Italia a trovare i miei, andavo a Parigi, sì, però avevo la residenza in Marocco. Ma questa... Dove mi interessai ai riti di possessione Gnawa, incontrai Georges Lapassade dell'Università di Parigi, iniziamo una collaborazione, frequentavo la casa di Tony Maraini. Tony Maraini era sposata con un pittore marocchino, si chiamava Tar Benjelloun. Il Marocco era diventato indipendente da poco tempo, c'era una vita culturale molto, molto intensa, volevano recuperare le tradizioni locali dopo il colonialismo. E la casa di Tony Maraini era frequentata da Pasolini, da Moravia. Quando era Pasqua o Natale andavano fuori Italia, viaggiavano. E quindi incominciai a interessarmi a una rivista che si faceva lì, si chiamava Integral, Arti Plastiche e Letterarie, conobbi Tahar Benjelloun, questi che poi Mohamed Choukri, l'autore del Pane Nudo. Poi quando tornai in Italia nel 75 feci tradurre Mashish e 100 cammelli nel cortile di Paul Bowles, Mohamed Mrabet. Sì. Vissi in Marocco 8 anni, sì, sì. Beh, cioè, vado a stare fuori dai coglioni. Lo stesso Ginsberg, poi, se non sbaglio. Fuori dai coglioni, Lo stesso Ginsberg, forse fece qualche anno, non a Essaouira, no, so, forse anche a Tangeri. Balls. A Tangeri. Anche Barros. Ma negli anni 50, questo. Prima, allora. Questo, okay. questi e non anni. Era ancora indipendente, quindi, il Marocco. No. Sono stato all'hotel dove ha alloggiato Barroghs a Tangeri. Ah? Sono stato in quell'hotel dove ha alloggiato Barroghs a Tangeri. Che hotel era? Non mi ricordo il nome, ma non c'era... Ma la, sì, Muniria. Muniria. Non c'era nessun riferimento comunque. Ah, sei stato lì? Sì. Forse qualche foto, ma poca roba. In che anno sei stato? 2015-16, una roba del genere. Sì. Io ogni tanto andavo a Tangeri, io avevo la residenza a Marrakesh, dove avevo affittato un grande riad e poi avevo anche una casa a Essaouira. Come facevo? Facevo pittura su vetro. Me l'aveva insegnato un pittore di Brera. Mi aveva insegnato a incidere sul vetro con l'acido e poi a dipingere. Facevo i nomi di Allah su vetro. Avevo visto, si vendevano come panini. Avevo visto che nelle casse borghesi c'erano i nomi di Allah sul cartone. Io decisi di farli su vetro, avevano... e quindi vivevo bene, sì. Di necessità virtù. Sì, pittura su vetro facevo. Ma senti, ma... Ho fatto anche delle mostre al consolato. Là? Sì. E poi frequentavo gli hippie. Che era pieno? Sì, lavoravo 6 mesi all'anno, non di più. Sì, era pieno. Gli italiani cominciarono a viaggiare negli anni 70, sì. C'erano soprattutto inglesi. Io frequentavo un gruppo di inglesi di Londra. C'era un certo Graham Plinston, che poi è diventato uno dei più grandi commercianti di hashish. Sì, lui aveva delle relazioni con un ragazzo libanese, il quale a sua volta aveva delle relazioni con Durrani, che era un grande commerciante di hashish legato alla famiglia reale afghana. Poi è stato arrestato poi in Svizzera nel 1970, sì. Graham Plinston era mio amico di quel periodo. C'era Tatiana Andrews, la moglie di George Andrews, il poeta psichedelico. George Andrews, Pianeta Fresco ha pubblicato delle poesie di George Andrews. Chi altro c'era? Bernadine Coverley. Bernadine Coverley era la moglie di un pittore inglese, Lucian Freud, che era il pronipote di Freud. Lei era arrivata in Marocco con le due bambine, Bella ed Esther Freud. Io sono stato un po' di tempo con lei, però a me interessavano i ragazzi soprattutto. Ero così, ero un po', non ero specializzato, sì, in quel periodo. Bella ed Esther. Esther Freud ha scritto un libro su quel periodo, Aideus Kinky, strana idea. Hanno anche fatto un film, sì. E il papà di Bella ed Esther, Lucien Freud, mandava i cioccolatini alle figlie, sì. Alle nipotine. Bella ed Esther Freud. Ale, ti Chi vedo è? Pronto per leggere qualcosa. Stavo pensando, se vi va di leggere due cosette, La prima è un brevissimo articolo che possiamo considerare un'ipotesi di brevissimo manifesto per mettere dei puntini sulle i. È una cosa che è stata scritta nel 67. L'altra cosa che voglio leggervi è una delle poesie, è un, diciamo, una parte di una lunga ballata che scrisse un ragazzo più di 50 anni fa, che è uno dei capolavori della nostra letteratura underground. Ero Salesi. Ero Salesi. Questa cosa che vi leggo si intitola "Per un'analisi del fenomeno beat", è stata scritta su una rivista anarchica nel 67 che si chiamava Volontà, e lo scrisse C. R. Viola. Il beat non è un fenomeno musicale, ma prettamente psicologico, anzi vorrei dire esistenziale. Esso è una delle tante possibili forme attraverso cui la vita rivendica i propri diritti naturali. È stato definito da qualche parte come un ritorno all'infanzia. L'affermazione contiene delle verità, ma si presta a interpretazioni univoche e denigratorie. In realtà non è che si voglia tornare bambini, bensì restare tali. E se vi è una degenerazione, è esattamente quella di non sapere più essere bambini. L'attività più naturale è quella spontanea, e quella spontanea si configura nel gioco. Niente è più serio del gioco. Al contrario, la serietà degli adulti è una manifestazione decisamente grottesca e ridicola. Il mondo degli adulti è tanto più mostruoso quanto più questi si ammantano di sacro nella loro mostruosità. E quale prospettiva esso offre alle nuove generazioni se non infelicità, violenza e distruzione? Che cosa offre in pasto ai nuovi arrivati se non disonestà a tutti i livelli e sotto tutte le possibili forme? Avevo sempre immaginato che la risposta più consona a siffatto mondo fosse una risata universale, capace di squassarne gli edifici e di irritarne i personaggi più austeri. Tale risata viene dal fenomeno beat, una risata che i più non comprendono, non accorgendosi di deridere se stessi. La contemplazione, l'ozio, il disordine e il gioco sono congeniali all'uomo. Quella della inevitabilità del lavoro è una favoletta inventata e ripetuta da pochi per sfruttare i più. Il lavoro è il tributo che l'uomo paga alla civiltà, in particolare gli indifesi ai privilegiati. Mentre ora vi leggo una poesia che è stata pubblicata per la prima volta in una grande antologia poetica nel 79, che si intitolava Poesia degli anni 70. C'erano un catalogo di poeti, chiamiamoli, passatemi il termine, ufficiali, e in più c'era questo, la proposta di questo giovane poeta morto, che si chiamava Ero Salesi. Solo nel 2015 è stata pubblicata tutta questa lunga ballata in un libricino formato molto piccolo, sono 30 pagine. Io ve ne leggerò due paginette e mezzo. E rispetto a la possibilità di fare due chiacchiere con quei ragazzi che sono diventati un po' grandi, purtroppo Ero Salesi non abbiamo questa possibilità perché è morto quando aveva 19 anni. E lui scrisse una delle poesie più sentite e drammatiche della nostra letteratura beat. Sì, Ero Salesi lo chiamavano pasticca, che si impasticava sempre, allora si usava il maxiton. Se qualcuno conosce un po' la poesia di Allen Ginsberg, le prime dozzine di versi sono esattamente tratte dalla poesia Kaddish di Ginsberg, e poi lui ci attacca i suoi diversi. Oh mamma, che cosa ho tralasciato? Oh mamma, che cosa ho dimenticato? Oh mamma, addio con una lunga sciarpa nera. Addio con il Partito Comunista e una calza rotta. Addio con i sei peli neri sul porro del tuo seno. Addio col tuo vecchio vestito e una lunga barba nera attorno alla vagina. Addio con la tua pancia afflosciata, con la tua paura di Hitler, con la tua bocca di brutti racconti, con le tue dita di mandolini in rovina, con le tue braccia di grasse verande di Patterson, con la tua pancia di scioperi e ciminiere, con il tuo mento di Trotsky. Che spesso il doloroso e problematico dubbio che il mio amore, sincerità e buona fede non venga captata, o venga captata diversamente, che per questo parlo, che per questo sporco di blu questo foglio, che sporco il foglio con un serpente blu che spunta da un pennino di penna stilografica e che si attorciglia alle righe orizzontali del foglio, che le righe del foglio possono essere anche verticali, basta cambiare il punto di osservazione, che sono felice di ridare un valore di forte importanza alla mia essenza, alla vita che la mia essenza vive, che essenza e vita vivono come corpo, come essenza unica, che sono felice di essermi accorto del gioco che conduco, gioco pericoloso che può divenire pericoloso, gioco del momento storico in cui sono, che il gioco, che la spiegazione del gioco. Dare ad alcune sensazioni l'impressione allucinata, autosuggestiva, tramandata e dovuta all'inculcamento del bello e del brutto, del buono e del cattivo, del dolce ed amaro, del giusto ed ingiusto. Che questo gioco, che il destreggiarsi in questo gioco è divenuto l'unico fatto, l'unica realtà, l'unica creazione dell'uomo. Che in questi istanti riesco a considerare tutto normalità, e a dare ad alcune realtà o fatti che mi interessano tutta la forza del mio essere. Che sono felice, che tutto mi è chiaro, che vedo solo ciò che i miei occhi riescono ad abbracciare. Che credo coscientemente alla mia grande verità, che mi dispiace non poter dividere questa dimensione con gli altri esseri che mi circondano, che mi spiace non poterla dividere con Serafino, Zafferano, Franco, Leda, Francesca. Che ringrazio tutto ciò che ha voluto o contribuito a crearmi questi attimi di felicità, di onniscienza, di pace con l'essere. Caro papà, tu che ora sei nei pascoli celesti, nei pascoli terreni, nei pascoli marini, tu che sei nei pascoli umani, tu che vibri nell'aria, tu che ancora ami tuo figlio Alesi Eros, tu che hai pianto per tuo figlio, tu che segui la sua vita con le tue vibrazioni passate e presenti, tu che sei amato da tuo figlio, tu che solo eri in lui, tu che sei chiamato morte, cenere, mondezza, tu che per me sei la mia ombra protettrice, tu che in questo momento amo e sento vicino più di ogni cosa, tu che sei e sarai la fotocopia della mia vita. Che avevo 6-7 anni quando ti vedevo bello, forte, orgoglioso, sicuro, spavaldo, rispettato e temuto dagli altri. Che avevo 10-11 anni quando ti vedevo violento, assente, cattivo, che ti vedevo come l'orco che ti giudicava un bastardo perché picchiavi la mia mamma. Che avevo 13-14 anni quando ti vedevo, che vedevi di perdere il tuo ruolo. Che vedevo che tu vedevi il sorgere del mio nuovo ruolo, del nuovo ruolo di mia madre. Che avevo 15 anni e mezzo quando vedevo che tu vedevi i litri di vino e le bottiglie di cognac aumentare spaventosamente. Che vedevo che tu vedevi che i tuoi sguardi non erano più belli, forti, orgogliosi, fieri, rispettati e temuti dagli altri. Che vedevo che tu vedevi mia madre allontanarsi. Che vedevo che tu vedevi l'inizio di un normale, drammatico sfacelo. Che vedevo che tu vedevi i litri di vino e le bottiglie di cognac aumentare fortemente. Che avevo 15 anni e mezzo che vedevo che tu vedevi che io scappavo di casa, che mia madre scappava di casa, che tu hai voluto fare il duro, che non hai trattenuto nessuno, che sei rimasto solo in una casa di 2 stanze più servizi, che i litri di vino e le bottiglie di cognac continuavano ad aumentare, che un giorno, che il giorno in cui sei venuto a prendermi dalle stanze di sicurezza di Milano, ho visto che tu ti vedevi solo, che tu volevi o tua moglie o tuo figlio, tutti e due, in quella casa, da 2 stanze più servizi, che ho visto che tu hai visto che eri disposto a tutto pur di riavere questo, che ho visto che tu hai visto la tua mano stesa in segno di pace e di armistizio, che ho visto che tu hai visto sulla tua mano uno sputo, che ho visto che tu hai visto i tuoi occhi lacrimare solitudine incrostata di sangue masochista e punitivo, che ho visto che tu hai visto il desiderio di volere punire la tua vita, che ho visto che tu hai visto il desiderio di non soffrire, che ho visto che tu hai visto i litri di vino e le bottiglie di cognac continuare ad aumentare e che ho visto che hai visto in quel periodo la tua futura vita, che ho saputo, che hai saputo, che tuo figlio era un tossicomane, che tua moglie attendeva un figlio da un altro uomo, figlio che a te non ha voluto più dare. Che ho visto che hai visto 3 anni passare, che ho visto, che il giorno 9-12-69 non sei venuto a trovarmi al manicomio perché eri morto, che ho visto ora ciò che tu vedi, che ora tu sei il primo che giochi questo 3-7 col morto facendo il morto, ma che giochi ugualmente e che ora vedi che io vedo che ti adoro, che ti amo dal profondo dell'essere, che ora vedi che io vedo che mia madre rimpiangi Alesi felice, padre di Alesi Eros, che tu vedi, che io vedo, che sono fuggito ancora una volta verso la solitudine, che tu vedi che io vedo solo grande, grandissimo nero, lo stesso nero che io vedevo, che tu vedevi, che ora continuerai a vedere ciò che io vedo. Cara, dolce, buona, umana, sociale, mamma, morfina. Che tu, solo tu, dolcissima mamma morfina, mi hai voluto bene come volevo, mi hai amato tutto. Io sono frutto del tuo sangue, che tu, solo tu, sei riuscita a farmi sentire sicuro, che tu sei riuscita a darmi il quantitativo di felicità indispensabile per sopravvivere. Che tu mi hai dato una casa, un hotel, un ponte, un treno, un portone, io li ho accettati. Che tu mi hai dato tutto l'universo amico. Che tu mi hai dato un ruolo sociale che richiede e che dà. E che io a 15 anni ho accettato di vivere come un essere umano, uomo, solo perché c'eri tu, che ti sei offerta a ricrearmi una seconda volta, che tu mi hai insegnato a muovere i primi passi, che ho imparato a dire le prime parole, che ho provato le prime sofferenze della nuova vita, che ho provato i primi piaceri della nuova vita, che ho imparato a vivere come ho sempre sognato di vivere, che ho imparato a vivere sotto le innumerevoli cure, attenzioni di mamma morfina, che non potrò mai rinnegare il mio passato con mamma morfina, che mi ha dato tanto, che mi ha salvato da un suicidio o una pazzia che avevano quasi del tutto distrutto il mio salvagente, e che oggi, 22-12-1970, posso strillare ancora a me, agli altri, a tutto ciò che è forza nobile, che niente nessuno mi ha dato quanto la mia benefattrice, adottatrice, mamma morfina, che tu sei infinito amore, infinita bontà, che io ti lascerò soltanto quando sarò maturo per l'amica morte o quando sarò tanto sicuro delle mie forze per riuscire a stare in piedi senza le potenti vitamine di mamma morfina. Oh, cara, oh padrona morte, oh serenissima morte, oh invocata morte, oh paurosa morte, oh indecifrabile morte, oh strana morte, oh viva la morte. O morte che è morte, morte che mette un punto a questa saetta vibrante. Ma infatti è morto suicida. Sì. Neanche a vent'anni. Quello che mi colpì anni fa quando intercettai questo orizzonte letterario è la profondità in cui, con cui 50 anni fa persone di 17 anni scrivevano queste cose. Era molto giovane, fu antologizzato negli anni 70, mi pare, no? Nel 79, sì, e ne parlava bene soltanto Giuseppe Pontigia. Giuseppe Pontigia è commovente questa fiducia che questo ragazzino aveva nel linguaggio, aveva nella parola, mentre invece poi Pasolini lo stroncò questa poesia, non so se ti ricordi. Sì, sì. Lui aveva una tenda con Zafferano al campeggio nel 66. Gliel'aveva data Walter Pagliero, la tenda. Sì, no, mi stavo perdendo. Beh, brividi. Potentissima, tostissima questa poesia. Shocking, sì, sì, è vero, davvero. Intensa, sì. Ma tornando al documentario un pochino a quei tempi, abbiamo visto che questo movimento era come trainato da uno spirito che univa queste coscienze, che cercavano di liberarsi dai pesi del materialismo e vibrarsi in aria alla ricerca di sé, di lasciarsi essere, se vogliamo. Questa, ed è una domanda che voglio rivolgere a entrambi, questa, diciamo, comunione degli intenti, che era spontanea, come abbiamo detto prima, ha portato ad una solidarietà, come dire, immediata delle persone che si riconoscevano anche attraverso l'estetica, i valori, il modo di vivere. Una solidarietà che poi si è perduta. E mi chiedo oggi questa potenza dove sia finita, questa possibilità di unione, questo terre d'union che liberamente e spontaneamente unisce le persone verso un obiettivo comune. Sembra persa ai miei occhi. Vai tu, vado io? Vai. Sono abbastanza negativo, nel senso, sì, quelle modalità si sono perse. La cosa che mi ha sempre colpito, e poi ho provato a studiarla, è come in un momento in cui c'era una società castrante, una società ancora che per una buona parte degli organi di potere aveva ancora uno stampo fascista, alcuni ragazzi si sono riconosciuti e hanno agito, e le loro azioni hanno creato delle reazioni alle volte altrettanto castranti, fogli di via, processi per oscenità legati a poesie. Se inizialmente il me più ingenuo interpretava solo come qualcosa di assolutamente becero un processo per oscenità, oggi dico una cosa forte, sto un po' pompando il ragionamento, oggi invidierei un processo per oscenità, perché allora ogni gesto aveva un peso, non a caso siamo qui a parlarne. Oggi è come se l'orizzonte sia un orizzonte profondamente infarcito di marketing. È come stare in una grande gomma americana, qualsiasi gesto torna indietro senza lasciare traccia. Un grande spettacolo. Sì, è un grande spettacolo. E la cosa che mi ha colpito e mi ha fatto pensare pertanto alla radicalità della stragrande maggior parte di questi ragazzi che scrivevano era quantomeno il non interesse ad essere pubblicati. Che distanza abissale c'è rispetto al nostro 2023. Allora questi ragazzi erano realmente dei nipotini di Arthur Rimbaud. Volevano vivere la poesia, viversela addosso e volevano trasformarsi nella vita. Non volevano diventare degli scrittori con le fotografie nel retrocopertina. Questa è una distanza abissale. E questo mi fa dire che in quei 2 o 3 anni magici, prima del 68, abbiamo avuto una prospettiva ancora più radicale dei beat americani. Certamente non abbiamo avuto degli scrittori di tale qualità, chiaramente. Ma come modo di essere, come modo di fare, erano ancora più radicali. Erano molto più soli, in una nazione non interessata a loro, ma anche loro stessi non volevano darsi come un aggeggio in più nella società letteraria italiana. E questo è un dato profondamente radicale. Io, e poi chiudo, penso, anche se non ne sono completamente certo, che il buco culturale di questi 50 anni rispetto alla prospettiva beat italiana sia dovuto anche al fatto che non hanno voluto fare compromessi neanche nel campo del mondo editoriale italiano. Cioè, io mi sono chiesto più volte perché questa cosa qua ho dovuto farla io che non sono nessuno, quando negli ultimissime decine di anni possiamo trovare antologie di poesie di qualsiasi tipo, poesie di carcerati, poesie, cioè se ne trova tanto, mentre poesie che si trovavano allora in riviste, la maggior parte di tutto quello che io ho antologizzato si trovava in riviste che adesso sono riviste famose, costano un sacco di soldi, sostanzialmente modalità di collezionismo per chi se lo può permettere. Nessuno negli ultimi 50 anni, dopo l'interesse di Fernanda Pivano che si può fermare al 68, 69 o 70, nessuno si è mai più dedicato a questa prospettiva, quando bastava cercare e ce ne sono di frutti. Io ho pronta da 2 anni il seguito di quel libro, io da solo, senza mezzi importanti, senza aiuti importanti, senza spinte da parte di nessuno, ho trovato 500 pagine di materiale underground italiano, pubblicato su rivista, di matrice letteraria, poetica. E buona parte di queste pagine sono profondamente interessanti. Profondamente interessanti. Perché non se ne è occupato nessuno? Io una risposta che mi do è perché voleva dire toccare e ritirare fuori una modalità profondamente estrema in cui l'autonomia del fare, l'autonomia dell'essere era sovrana. E forse alcune persone nel mondo culturale non sono interessate a un messaggio tale. Altrimenti non me lo spiego, perché le potenzialità di vendita, parlando chiarissimamente, per una casa editrice vera, grande, di questo materiale sono altissime. Basta solo metterci il marketing giusto, potenzialmente il prodotto c'è. Nessuno l'ha mai fatto. Non mi sono mai risposto davvero il perché. Perché bastava solo lavorarci un po' di marketing e qua ci potevi, grandi case editrici potevano fare tanto. Nessuno l'ha mai fatto. Gianni, tu cosa ne pensi? Ma come dicevo prima, era un processo di accomunamento spontaneo, era, diciamo, era una consumazione di forme del desiderio, non di spettacolo. Quindi, poi ho qualche dubbio che delle grandi case editrici italiane possano essere interessate. Ho qualche dubbio, sì. Parleranno di mitologia del desiderio, di cose del genere. Cioè, ormai la società italiana è completamente diversa da quella di allora, completamente diversa. Cioè, tutto quello che volevamo l'abbiamo avuto. C'è la liberazione dei consumi, sì. Cioè, stranamente. Abbiamo fatto il gioco del capitalismo, in un certo senso, no? Anche adesso c'è libertà sessuale, a purché sia lungo certi binari, naturalmente. Capelli lunghi. Abbiamo avuto i capelli lunghi, abbiamo avuto il divorzio, la gayizzazione della società, eccetera. Eppure il manifesto, questa sorta di manifesto letta prima dei Beat, è ancora molto attuale, perché? Il manifesto? Cioè, nonostante queste cose ottenute, è molto attuale ancora quello che Alessandro ci ha letto prima, come manifesto un po' dei Beat, quindi qualche cosa che va dal di là, comunque di una sorta di vita votata alla produzione, al lavoro, no? Forse allora, quando mancavano i diritti, cioè a me sembra assurdo pensare a un'Italia in cui c'era c'era la censura rispetto agli scritti, sembra veramente un'epoca. Sì, non si poteva dire piede in televisione. È allucinante questa cosa, e però forse il fatto di essere in prima persona è una sorta di protagonismo di lotta anche, quell'autonomia che diventa necessità, perché altrimenti non si respira in qualche modo, quindi non potendo io dire una parola, il mio immaginario in qualche modo viene strozzato, e quindi quella lotta lì era fortemente sentita, sembra quasi che oggi non si sappia più bene per quali diritti lottare, o comunque ritornare in qualche modo a attivarsi, per quanto ce ne sia ancora bisogno. La cosa che mi dà tristezza e malinconia oggi, dirla, ricordarla, dirla così, interpretarla così, è che questi ex ragazzi, ti offendi se dico ex ragazzi? No, perché... Con grande facilità allora trovavano i propri fratelli. Io mi chiedo dove sono i miei fratelli e le mie sorelle oggi, e non ho nessun tipo di risposta. È questo che manca. Io credo che a livello culturale, se adesso provo a fare un discorso serissimo, a livello culturale manca questa modalità da piccolo gruppo, da tribù che lavora profondamente interessata a un argomento, a un aspetto che conta per te. Abbiamo produzioni culturali, abbiamo tecnologie, qualità altissime, ma non riusciamo a lavorare, a provare a fondere il vero lavoro, quello creativo, quello personale e la vita con i nostri fratelli. Non si riesce più a portare avanti una modalità di gruppo per fare qualcosa. Per fare qualcosa di autonomo e alternativo. Siamo diventati molto più facilmente amebe isolate che proviamo a farcela magari con dei piccoli trucchetti di marketing. Questo credo che manchi, cioè nel mondo, tolto il mondo già magari canonico, ufficiale, il teatro dal basso come sta in Italia, la letteratura dal basso come sta in Italia, riesci a trovare quelle 15-20 persone in cui per anni confrontarti su quello che stai facendo, come lo stai facendo, perché lo stai facendo? Esiste oggi in Italia questa possibilità tra gli esseri umani? Se ci sono anche domande da voi, benvengano. Dal vasto pubblico. Sì, posso senza microfono. Certo. Con che sentimento, Alessandro, ti sei approcciato a far riemergere dei testi che appartenevano, che forse nascevano da un desiderio di rimanere in quel contesto, in quel... Allora, provo a riassumerti brevemente. Allora, con che sentimento ti dico subito anch'io lo stupore, rubando una parola che è stata detta da Gianni Milano. Io in realtà da circa 15-18 anni fa portavo in giro dal vivo un reading strutturato con dei musicisti, con delle poesie dei beat americani. E poi era una situazione che andava così bene che abbiamo fatto tantissime date dal vivo fino proprio a annoiarmi. Cioè io non ne potevo più di quei testi stupendi perché basta... E in quel periodo lessi qualcosa dalla rete per quanto riguarda Gianni Milano, il poeta con i capelli bianchi, un po' di barba bianca. Io mi ricordo ancora come se fosse ieri, gli scrissi una mail solo con questa frase: salve, virgola, è lei il poeta beat, punto di domanda. E lui mi rispose mandandomi una sua raccolta delle migliori cose che dal suo punto di vista aveva scritto negli anni 60. Cioè mi arriva 150 pagine di poesie degli anni 60 e io rimango senza parole. Io rimango senza parole perché trovo i figli dei migliori americani. Cioè nelle sue poesie trovo quei frutti stupendi scritti da un italiano che ha vissuto a Torino. E quindi 18 anni fa ho cominciato ad andarlo a trovare e sono stato 30-40 volte da lui. E piano piano, grazie ai suoi racconti, inizio a scoprire in tutto quel magma che io avevo in mente di un lungo 68 in cui era tutto mescolato insieme, inizio a mettere dei puntini sulle i e scopro che prima del 68 ci sono stati degli anni diversi, in cui l'aspetto che contava non era la politica, ma l'aspetto esistenziale. E c'erano dei ragazzi che scappavano di casa e scrivevano poesie. E da lì è nato un mondo, da lì è nato un mondo, poi vabbè, tante persone con grande carineria mi hanno regalato, sapendo che mi stavo interessando a queste cose, degli originali che se volete poi potete sfogliare, sono qui. Queste cose per esempio me le ha regalate Gianni Milano negli anni, sono i frutti di una casa editrice di poesia underground italiana che si chiamava Pitecantropus a Torino. Questa per esempio è la prima fanzine di poesia underground italiana. E quindi da lì, conoscendo abbastanza bene l'universo degli americani, è stato bello e sorprendente trovare che questi ragazzi erano più figli degli americani che della prospettiva della storia della letteratura, della poesia italiana. E niente, poi chiudo. A un certo punto ho messo da parte i miei progetti personali, perché avevo tante cose in lavorazione mie, perché ho pensato, ho sentito che valeva la pena dare luce a questi lavori, a questi frutti. E quindi poi piano piano da una cosa nasce un'altra cosa, ho curato anche degli interi libri scritti da ragazzi che comunque conoscevo, anche Gianni. C'è un romanzo lì di Silla Ferradini che è un romanzo che è un po' un unicum nella letteratura, chiamiamola beat, italiana. Silla nel 69 comincia questo libro che si chiama I fiori chiari, il romanzo della beat generation a Milano dal 66 al 69. È l'unico romanzo che dal di dentro racconta come vivevano questi ragazzi a Milano e i personaggi hanno i nomi veri. Quindi mi sono messo a curare riedizioni di questi lavori, ho conosciuto Silla, poi piano piano negli anni ho conosciuto Gianni, abbiamo fatto tante cose anche insieme dal vivo e... Ti ho conosciuto negli anni, a te. Sì, sì, certo. Abbiamo fatto anche tante cose dal vivo. Ormai certo, sì. Certo. E quindi piano piano poi da cosa nasce cosa. Vabbè, i giovani di oggi sono straordinari. Questo qui che si suicida a 20 anni, poverino, insomma. Oggi è tornato mio figlio da Los Angeles, è andato lì a Los Angeles, si è messo insieme a degli amici, l'ho chiamato Karim con un nome arabo, è diventato milionario. Sì, sì. Che bello che inizia il momento autobiografico di Gianni, bellissimo. No, dico, beh, inizia un'altra fase della chiacchierata. Sì, sì, insieme a alcuni amici del liceo. Alcuni amici. Molto beat. Ecco. Posso raccontare, ti interrompo solo per raccontare uno degli episodi più beat in cui ho potuto viverlo dal vivo con te nella mia vita. Sì. Poi finisci perché non volevo fermarti. Aspetta. Sì, sì. Ma a me non... Eravamo in un posto al chiuso, un ex dopo lavoro del Corriere della Sera, e avevamo finito una chiacchierata io, Gianni e altre persone, e stavamo uscendo, mancavano 20 metri per uscire dal palazzo. Gianni si accende il sigaro dentro. E una persona lo guarda e dice: Gianni, qui dentro non si può fumare. E lui, con la più grande nonchalance, io non ho mai visto una persona così serena, zen come Gianni in quel momento, guarda seriamente quella persona e gli dice: ma io non sto fumando. E per dire che te sei una delle persone più beat che abbia mai conosciuto nella mia vita. Non era acceso, sì. Ah, era acceso. L'emblema beat. Ma no, un'ultima domanda, Gianni, volevo sapere un po' da te, dalle tue parole, un pochino il ruolo delle sostanze psichedeliche nel vostro... Beh, allora, quando c'era Mondo B 67, girava soprattutto l'hashish, alcuni ragazzi furono anche arrestati, sì. Non c'era ancora l'uso dell'acido, sì. Io l'acido l'ho trovato in Marocco la prima volta, veniva da Londra, era fabbricato, era proprio un acido buono, di buona qualità, in soluzione liquida, quella lì che sì. Bernardine Coverley aveva una bottiglietta così di acido, sì. Era di ottima qualità, sì, sì. Quindi sono arrivati dopo gli acidi rispetto ovviamente all'hashish, sì, ma sì. E invece la psilocibina e i funghi non erano già presenti? Sì, c'era anche negli anni 70. Dopo, quindi? Sì, sì, sì. Okay. Psilocibina, sì, arrivava qualche cosa in Marocco, sì. E sì, che... Sì. Ne parla Georges Lapassade nel libro Dallo sciamano a Raver, gli faccio un'intervista e lui racconta una sua esperienza con la psilocibina, fatta a Essaouira. La notte blu, inizialmente fu pubblicata su Rolling Stone, l'edizione italiana di Rolling Stone, poi l'ho messo voglio vedere no, dove l'ho messo? Voglio vedere in pace l'intervista, sì. Psilocibina. L'acido girava molto allora in Marocco. Io posso ricordare una cosa, uscendo dall'ambito specifico di cui Gianni è molto più esperto di me. Gianni Milano, al massimo nel 1968, al massimo, ma credo l'anno precedente, era già famoso a Torino in quanto maestro cappellone, perché lui faceva il maestro delle scuole elementari. Si lasciò sfuggire in un'intervista che gli propose La Stampa di Torino, una cosa che gli diede delle grane. Questo per dirvi che prima del 68 l'aspetto castrante, l'aspetto punitivo anche per quanto riguarda le droghe era profondamente alto. Gianni dichiarò che lui teoricamente non era contro la marijuana. I giorni seguenti lui ebbe una sospensione dall'incarico di insegnante per anni. Questa era l'Italia pre-68 e anche grazie alla conoscenza loro ho capito cos'era quell'Italia prima del 68, cioè tu non stai dicendo io faccio uso, io spaccio, io coltivo, io rivendo. Teoricamente io non sono contro la marijuana, sospensione per 2 o 3 anni dall'insegnamento. Quindi onore anche a chi ha fatto quei gesti che erano gesti importanti, le conseguenze erano importanti. Già solo per aver pubblicato parole come cazzo figa nelle poesie si rischiava un processo, vero. Sì, sì, nel 68 conobbi a Marrakech Gérard Jouten e Dominique Boistel, che erano dei francesi, che facevano parte di un gruppo che si chiamava Mandala, organo internazionale di scambi allucinatori, e loro assumevano LSD in maniera rituale, si ispiravano a René Dumas, sì. Poi si interessarono a Timothy Leary. Siamo nel 68-69. Al gruppo si voleva aggregare anche poeta belga, Michaud, Henri Michaud. Quando seppe che i ragazzi si interessavano a Leary, se ne scappò, no? Non fece più parte del gruppo Mandala, organo internazionale di scambi allucinatori. Sì. Poi andai a trovarli a Parigi. Avevano un ottimo LSD, buona qualità. Sì, sì. Ottimo. Oggi non si sa che cosa prendi, no? Oggi non lo prenderei, a meno che non venga da un laboratorio, è vero? Sì, pieno di anfetamine, anfetaminizzato. Sì, sì. Domande? Concludiamo? Sì. Ale? Sì. Vuoi dire qualcosa in conclusione? No, non mi viene niente in conclusione. Cioè, ho già parlato tanto. Se volete leggo un'altra cosa, ma se no... Chiudiamo con una lettura? Dai. Vuoi leggere tu quel pezzo là? Non vorrei annoiarvi con la... A me se, va, allora, se vuoi Gianni, leggi tu, chiudi tu col tuo pezzo, a firma tua, dai. Quello lì che è stato nella... insomma, non lo so. Alla taverna delle piccole streghe, ma qui stiamo già a Marrakech, dopo... Stiamo a Marrakech qui. Sì, siamo in mezzo agli hippie. Sì. Ah, qui è scritto più grande. Certo. Questo è nel Figli dello Stupore. La taverna delle piccole streghe. Pannello color verde stinto con ai bordi lampadine policrome. Taverne des petites sorcières. Spesso le lampadine si fulminavano e sfarfallavano. Averne SOS. Quando ci abitavo, la taverna era percorsa da una folla mistica di giovani viaggiatori di tutte le nazioni, o forse di nessuna. Dateci sacchi a pelo e tenetevi le bandiere, pantaloni a zampa d'elefante e minigonne stampate a fiori enormi, tremendi. Tutti nutrivano un certo interesse per sogni e visioni, oltre che un eccesso di lamentazioni per i morti e per come andava il mondo. Si interrogavano i cinque e si chiudevano gli occhi per vedere più chiaro il mondo. La magia dell'universo da ogni parte ci compenetra, solo che è un po' limitata dai nostri cervellini. In tutti i pisciatoi della galassia si mormorava dell'avvento dell'era dell'acquario e dell'elevazione del nuovo piano di coscienza, un piccolo salto evolutivo. Avrebbe detto oggi il povero Matteo Guarnaccia, parlava di salto evolutivo, più oltre. Diceva la scritta al fosfospruzzo dei pulmini psichedelici. I giornali in gergo canagliesco lo chiamavano trip di luce e amore. Insomma, erano i tempi della droga, della morte, dell'Oriente, e giù in cortile le vele si gonfiavano di chitarra e la musica andava. Zina suonava il bongo. Per la verità Zina era la moglie del poeta psichedelico George Andrews. Si chiamava Tatiana, qui la chiamo Zina. Zina suonava il bongo. E Sefiani, lo gnomo che ci affittava le stanze della taverna del Petit Sorcier, un berbero con un visino di mela rosa, con barba e senza baffi, batteva le mani. Papà, la nostra bambina se n'è andata. Come ha potuto farci una cosa simile? La colonna sonora era offerta dai Beatles e dai Figli di Lucifero. Bastava sintonizzarsi sui canali pirati di Psiche. Io rollavo gli spinelli con le cartine zigzag in cui si vede in filigrana la testa di un marinaio che fuma la pipa e gli occhi un po' rossi per la polvere si imbarcavano mentre l'aria della taverna vibrava di fumo azzurrino dal fresco odore erbaceo e quasi ambrato. Così persino a Tim, un elfo americano che aveva disertato la chiamata in Vietnam e ora indossava una lunga tunica arancione color albicocca suonata, venne un'idea geniale. È l'intuizione che ti fa riconoscere cose che appartengono a dimensioni differenti. Poi passa un joint a Zina e ride. Ecco la vera ricchezza che porterai sempre con te. Tutto il resto dovrà essere lasciato, che la bara non attasca. Ah, la bara non attasca, almeno quella, diceva Zina. E in quel preciso istante, dal vicino sovrastante minareto, si leva la voce gracchiante di un muezzin, seguito dall'abbaiare di tutti i cani dei quartieri. Cassa da morto, eh? Domanda Sefiani, mettendo la mano a coppa dietro l'orecchio. Spiegati, ma dai, proviamo di non morire. Lasciamo che sia l'ultima cosa da fare. Perché non illuminarsi? Tutti ne parlano. E poi continua la storia che vanno a prendere l'LSD, eccetera. Grazie. Se volete dargli un occhio, ho portato 4 originali di allora. 3 esemplari della più importante casa editrice underground di poesia degli anni 60 e la leggenda dice che questa è la prima fanzine di poesia underground in Italia. Rarità. È super rarità, sì, assolutamente. Maneggiare con cura. D'archivio. D'archivio, sì.